zuit sofita non ne ho, scarpe che hanno sempre fatto i passi giusti le mie. E c'è tutto un mondo che sta qui, nelle favole di eroi, che ancora mi stupiscono un po'. E i brutti ricordi vanno via, e anche se il mondo cade, no, non ho paura neanche un po'. E la notte porta via con sé, tra i suoi calci e le promesse, e c'è tutto un mondo che sta qui, nelle favole di eroi, che ancora mi stupiscono. Sono un burattino, sì, ma son bravi burattinai, non c'è nulla che li distolga dai miei guai. Vedo strade strette e oscure avanti a me, ed è grazie a chi non mi ha perduto mai. E c'è tutto un mondo che sta qui, nelle favole di eroi, che ancora mi stupiscono. E i brutti ricordi vanno via, e anche se il mondo cade, no, non ho paura neanche un po'. Che la notte porta via con sé, tra i suoi calci e le promesse. E i bagliori della città non sono più grandi di una lampadina accesa. Ora che io lo so ciò che voglio, ce l'ho, oh, ce l'ho.